Tutto chiaro? Mettiti alla prova. A. Ascolta e controlla. Risposta ad un biglietto di auguri. Cara Carla, ho ricevuto il tuo biglietto di auguri. Ti ringrazio del tuo affettuoso ricordo e spero di rivederti presto. Se hai occasione di passare dalle mie parti, fatti viva. Telefonami o vieni direttamente a trovarmi. Nell'attesa, ti porgo i migliori auguri per le prossime festività e ti auguro ogni bene.